telefonate in diretta a 451 frammenti sonori, o magari per qualcuno 451 frammenti sonori.noblogs.org. Comunque sia, comunque ovunque anzi siate, il benvenuto a questa seconda parte di 451. In compagnia chiaramente di Eliseo Scarpa e Max Macchia. Bene, bene, vedo che ci siamo, sì. Insomma, siamo attenti, sì, pronti, sì, sul pezzo, alle griglie di partenza per i grintosi per partire nella seconda parte. Bene, tu sei un velocista, no? Sì. Sei più velocista che o più fondista? Ero velocista, sì. No, io andavo meglio sul fondo, anche se avevo uno scatto deciso, però sono troppo alto. Va bene, a parte queste riflessioni così sulle vecchie attività sportive. Vecchie proprio antiche, cioè. No, se non preistoriche, vabbè, ma nessuno gliene frega niente, oppure magari, che ne so, qualcuno ci ama particolarmente, quindi pensa e ci immagina attraverso le voci, chissà come. In realtà siamo più brutti di quello che possiate pensare, no, in realtà siamo molto belli. E seconda parte appunto di esperimenti italiani negli 80, prima sezione dedicata alle sperimentazioni wave, e partiamo da un disco molto importante, quella scena, ci spostiamo un po', poi dopo vi spiegheremo anche meglio geograficamente, andiamo a trovare quella Firenze così ricca, Body Section, andiamo a ascoltare Die Form e poi Rinf, ne riparliamo dopo. We'll be right back. siamo ritornati in diretta, abbiamo ascoltato due brani connessi chiaramente alla compilazione che poc'anzi aveva presentato il buon Max, Body Section, un lavoro assolutamente importante dal punto di vista storico, tenendo conto poi che è stato fatto nell'83, dunque nel pieno della situazione musicale legata alla wave italiana con tutte le sue sfumature, tant'è che l'etichetta Electric Eye torinese in questa compilazione l'ha divisa praticamente in due sezioni, una la Blue Section e la seconda la Red Section, diciamo due sezioni caratterizzate da un'atmosfera tra virgolette ecco più soft nella prima parte, nella seconda invece più sperimentale, più violenta, più dura, che poi oltretutto abbiamo praticamente ascoltato in questi due progetti, il primo che era stato già presentato di Form, dove abbiamo visto questa strutturazione molto schizzata dove sax, chitarra, batteria, martellante si fondono appunto per formare un suono, un'atmosfera molto dissonante, molto originale, per arrivare poi all'ultimo brano che abbiamo ascoltato, questa dei Rinf, che ricordava sicuramente certe dinamiche musicali legate alla new wave americana con sax, jazz, ritmi spezzati, voci assurde, impazzite, anche un po' incazzate all'interno di questo tipo di atmosfera. All'interno di questa compilazione poi c'erano molte formazioni, alcune che abbiamo anche già ascoltato come Frigider Tango, formazioni anche poi più famose, che, oppure altre che andremo a ascoltare tra poco all'interno del nostro percorso, ma ritengo anche molto interessante il fatto che proprio nel momento è stato fatto questo discorso già storico, cosa che di solito succede molto tempo dopo, vengono fatte appunto compilazioni per ricordare, per creare una sorta di memoria storica rispetto a quello che succedeva. Forse l'Electric Eye aveva già capito che era un momento che forse sarebbe anche finito, che qualcosa stava già cambiando nell'83, parliamo di un periodo storico, proprio l'83 abbastanza cruciale, tra l'83 e l'84 incominciano a cambiare molte cose, e forse loro da buoni visionari o da veggenti avevano già capito, più che veggenti forse materialmente dentro le contraddizioni e i cambiamenti, avevano capito che forse tutto questo sarebbe scomparso e che sarebbero andati avanti le cose sicuramente più commerciali, più dentro il sistema che si stava completamente ricostruendo e risistemando a livello generale qua in Italia. E da Body Section, che vi consigliamo se avete occasione di trovarle, una raccolta appunto dell'83 della wave italiana, ci spostiamo a trovare una formazione sicuramente importante sotto vari punti di vista nella scena wave. Sì, tra l'altro appartiene anch'essa alla selezione di Body Section, che poi è stata ristampata un paio di anni fa, quindi non è particolarmente difficile ritrovarla. Una ristampa, forse la stessa Electric Eye che rediviva. Dentro comunque la storica selezione c'erano anche Monuments, gruppo decisamente importante per quanto riguarda un immaginario sonoro dentro una città che pagava lo scotto di una politicizzazione decisamente forte, ovvero Torino, ovviamente capitale industriale italiana. Succedeva che finiva probabilmente anche una certa un certo esperimento, uno degli esperimenti più importanti del secondo dopoguerra in termini di cambiamento radicale, ovvero nel momento in cui ci fu una marcia di 40.000, probabilmente finì quella grande stagione dell'operaismo italiano, che portò appunto figure assolutamente brillanti e incisive soprattutto della nostra cultura politica, che appunto hanno fatto veramente cose importanti e poi soprattutto hanno innervato con analisi puntuali sulla centralità operaia appunto quelle che erano una nuova generazione che poi esploderà insomma nel 77, e quindi anche qua a Bologna per il riflesso. Torino però vivrà sicuramente un momento drammatico per tanti aspetti nei primi anni 80, potremmo veramente di tante cose su sta faccenda e anche entrare dentro terreni minati tuttora, e questo non è un caso. Se si dovesse parlare di Brigate Rosse, insomma, a Torino e soprattutto alla Fiat, si aprirebbe veramente dei discorsi che assurdamente anche per tanti versi, ma poi fino a un certo punto, perché sono chiaramente discorsi molto pilotati, non portano ancora a fare delle riflessioni su un periodo storico che per tanti versi è chiuso, anche se in Italia magari qualcuno si scrive ancora qualche volantino delle Brigate Rosse, lo scrive proprio lui, ma anche qua potrei incorrere, vabbè, non si può, vedi, l'autocensura è tremenda. L'altro giorno, vabbè, qualche uno si è scritto di nuovo un volantino delle Brigate Rosse, così, quello che è uscito a livello informativo, sì, bravo, così dicono, giornali. Guardate che mi vogliono ammazzare, stanno minacciando di nuovo, storici escono sempre fuori sti volantini, ecco, appunto. Quindi in Italia non si può fare riflessione su certe cose, non vengono ristampate ancora in maniera underground certe situazioni musicali, e come a dire, è il passato che non passa, sicuramente, e non passa perché è un passato antagonista, è un passato che non concilia, come non conciliavano Monuments, che stringevano un patto d'azione assolutamente micidiale per forza dirompente, un synth duo molto vicino alle corde della prima Cold Wave, anche con influssi quindi dentro la musica industriale o dentro un'epicità morta, si potrebbe dire, da post-atomica, immagini insomma di rovine che cadono appunto su questa Torino che si vuole ipermoderna, e scenari musicali decisamente evocativi, un'evocatività che appunto ricorda molto un'epicità dentro la malattia, dentro il degrado, quello vero, quello della degradazione umana, che sì, fa venire forse in mente un certo Carpenter, forse sì, ma poi infatti l'idea che tu hai espresso, diciamo l'immagine, appunto le rovine, c'è un disco proprio dove loro due di Monuments sono proprio dentro una rovina, dentro delle case diroccate, distrutte, dunque sì, proprio a livello immaginario molto chiaro, sì. Andiamo a prendere dalla loro primissima esperienza i tape tra l'82 e l'85, prendiamo due splendidi pezzi appunto di quella grande epopea che è stata Monuments. We'll be right back. Soundtracks, piles of fire and lights, going

siamo ritornati in diretta, abbiamo ascoltato adesso una formazione piuttosto scura e si capiva molto bene dalla sonorità, insomma, di questo brano, una formazione che, a differenza di molte di quelle che abbiamo ascoltato fino adesso, ha portato avanti la propria progettualità musicale fino ai giorni nostri, ha continuato a produrre musica e dischi. Parliamo di Kirlian Camera, formazione sicuramente tra le più conosciute forse di questo percorso di stasera, ancora adesso appunto producono, formazione che è nata nel 1980 parmense, dunque è nata a Parma, dall'idea, dalla mente di Angelo Bergamini, tastierista oltre a essere programmatore e anche vocalist, e Kirlian Camera si sono sempre mossi su un terreno industrial con forti venature dark e dimensioni sicuramente molto scure, giocando anche molto sulle immagini con cadaveri, dimensioni piuttosto apocalittiche e anche un po' morbose sulla morte, e dunque appunto l'elemento dark sicuramente emerge in maniera forte nei lavori degli anni 80, oltre perlomeno che... sì, quello shock, quella tattica dello shock, sì, della musica industriale, sì, seppur in salsa appunto Kirlian Camera, sì, in salsa Kirlian Camera, che insomma è abbastanza particolare e anche un po' fuori da certi schemi dell'industria che spesso noi inseriamo all'interno della trasmissione, però è una formazione che sicuramente è stata importante nel quadro degli anni 80 della wave e dell'industrial anche italiana, una formazione che abbiamo fatto ascoltare dal disco uscito nel 1983, It Doesn't Matter Now, formazione che, ripetiamo, continua a portare avanti il proprio percorso musicale spostandosi negli ultimi anni molto anche sul folk, su una sorta di techno-pop più elaborata sul piano appunto elettronico, però rimanendo sempre su quella scia musicale sonora. Sì, dalle oscurità e ambiguità anche, perché no, di Kirlian Camera, sì, non l'ho voluto dire, sì, soprattutto in termini ideologici, e però insomma dentro poi l'industriale sicuramente c'è questo aspetto che insomma, ha una certa importanza rispetto infatti a quelle che sono delle posizioni poi non sempre riconoscibili dentro certi tratti. Kirlian Camera suscitarono varie polemiche proprio all'inizio della loro carriera, con contestazioni e faccende insomma non facili qua da dipanare, come forse Death in June e altre formazioni tacciate di essere vicine a movimenti di estrema destra. Noi per il momento, come dire, sospendiamo il giudizio, nel senso che le faccende poi che legavano tante industrial music hanno anche, come dire, fatto leva su una certa ambiguità e su anche un certo disturbo proprio nel essere così poco consoni o addirittura dentro schemi consolidati, soprattutto negli anni 80. Uno per tutte si potrebbe citare l'Aibach, il Fascio e Martello, poi in realtà i l'Aibach si sono anche molto chiariti rispetto invece a Kirlian Camera e Death in June, che tuttora rimangono abbastanza sul vago quando si parla di certe posizioni politiche, e in maniera chiara l'Aibach si espressero chiaramente come situazionisti, furono poi tra l'altro anche dentro quel discorso molto particolare della ex Jugoslavia, ma questo vabbè ci porterebbe veramente lontano, l'abbiamo già infatti l'abbiamo già analizzato, sì, potremmo parlare parecchio infatti su, sì, seppur i Laibach anche musicalmente hanno influenzato decisamente gli stessi Kirlian Camera e anche forse per certi versi come tratto estetico, seppur appunto sottolineiamo che i Laibach sono stati decisamente più chiari in termini perlomeno ideologici, appunto facendo ben capire di essere dei situazionisti, di quindi giocare con delle carte insomma anche piuttosto particolari, come d'altronde fecero Magazzini Criminali, anche loro situazionisti, però in quella di Bologna, perlomeno per quanto riguarda Italian Record, stampata appunto Crollo Nervoso nell'80 addirittura appunto dalla storica etichetta di Oderso Rubini, e un gruppo che è situazionista di fatto, perché univa una sorta di collagismo dell'assurdo e quindi una sorta di morte dell'arte musicale, da Brian Eno, Robert Fripp, Billie Holiday, Brian Gesin, John Hassell, Miles Davis, David Byrne, addirittura nel loro secondo disco assurdità per sperimentazioni come la Caterina Caselli unita a Cage, cose di questo tipo, una sorta appunto di non musica voluta e costruita anche o decostruita, anzi per meglio dire, in una maniera assolutamente geniale, disco di culto, forse non ristampato a quanto ne sappiamo, oppure ristampato comunque in edizione piuttosto limitata, 1980 appunto, quindi l'attestazione è quella dell'Italian Record. Mi sa che non è stato ristampato questo. Sì, ed è un vero peccato. Noi andiamo a prendere Mogadiscio 1985 da questo gioiello della non music italiana, del senso di smarrimento voluto e quindi appunto anche qua di miscolamento delle carte per dare un senso altro, un'alterità anche piuttosto defagrante, come appunto sentirete, ascolterete. Direi una cosa, così mi è venuta in mente adesso. Dica pure, caro. Prego. Che comunque i Magazzini Criminali, appunto per il loro modo di affrontare il discorso musicale, poi ho letto anche che loro hanno fatto dei lavori extra musicali anche a livello proprio di scrittura, dunque c'è un progetto molto più ampio. Ecco, potrebbe essere una di queste formazioni, proprio i Magazzini Criminali, questo progetto, uno di quei progetti che stanno un po' intersecanti, no? In queste tre parti che vorremmo costruire della trasmissione, perché rispetto a poi quello che faremo successivamente per continuare questo percorso sulle sperimentazioni degli 80, è una di quelle formazioni che viaggia bene in tutti questi ambiti, dunque sì, qualcosa che non vi anticipiamo neanche, vi anticipiamo uno, sì, quello sulla Avant, ecco, quindi, quello sull'avanguardia, sta perfettamente dentro anche in quello, come sta bene anche nell'ambito di stasera, dunque una formazione appunto molto eclettica, è un modo di affrontare l'aspetto musicale che comunque ci attraversa anche noi a livello radiofonico come attitudine, dunque sicuramente è molto molto legata a noi, basta. Va bene, basta. Angeles, o tre anni dopo. Ehi Joe, cos'è questo rumore? È Fred lo sfascia carrozze. Hanno detto che sta preparando un osso nuovo. Così il vecchio coccodrillo parte. Fred voleva comprare il mio osso, ma gli ho detto: prendi droga e corri. Ok, corriamo giù al fiume, prendi l'osso, Joe. Tutti ci guardano guidare la scheggia stuccata di grigio, le pinne Eldorado e i cerchioni cromati. Ci guardano tutti. Già, sai, mano, vedo una scia nera in curva parabolica. È l'ora degli angeli che cadono sulla terra. Avremo schegge di satellite per ornamento, schegge di satellite per propaganda.